La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. In questo lunedì 11 gennaio 2016, mai come oggi, sono da una parte amareggiato per la ragione, ma dall'altra anche non mi lamento certo di partire in ritardo, perché la trasmissione di Enrico Ruggeri, Falco e Gabbiani, dedicata in diretta alla scomparsa di David Bowie, è stata non solo bellissima, ma dovuta, più che dovuta, per quello che David Bowie ha rappresentato per tutti noi, per l'Occidente, per la musica, per il cinema, per l'innovazione per decenni, almeno, insomma, voglio dire, io ero un assoluto come milioni e milioni di altri fan, non me l'aspettavo, non sapevamo che fosse malato. Vi dico solo questo, che mi ha molto colpito, perché stamattina la Radio 1 pubblica tedesca alla notizia ha fatto uno speciale che è finito praticamente adesso, cioè mezz'ora fa, da quanto ho capito, ininterrottamente dedicato appunto a David Bowie, con ospiti, canzoni, ricostruzione della sua carriera, dei tanti progetti a cui ha partecipato. Quindi grazie a Enrico Ruggeri personalmente, come ascoltatore lo dico, per il ricordo in diretta che ci ha dato, un personaggio straordinario. E siamo tutti più poveri, e questo ricorda che purtroppo nessuno di noi è indispensabile, anche i più grandi, come sicuramente David Bowie è stato. Allora, vado al molto più modesto argomento della puntata di oggi, facendovi subito la domanda, visto che siamo in ritardo, vado subito al punto, poi vi presento gli ospiti. La domanda è semplice ed è secca: dopo i fatti di Colonia in Germania, dopo tutte le polemiche su immigrazione, dopo i fatti di Vignola in Italia, ricordate gli immigrati che hanno chiesto a una serie di ragazzi italiani minorenni, credete in Dio, in Allah, e poi hanno sparato anche dei colpi di pistola in aria. Però la domanda è questa, visto le polemiche politiche accese dal cambio di idea del governo, del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Interno, credete ancora voi alla necessità di tenere in piedi il reato di immigrazione clandestina? È un reato introdotto nel 2009 dall'allora ministro Maroni nel nostro paese, è un reato di fronte al quale i nostri ospiti vi spiegheranno come questo reato abbia comportato effettivamente solo un mucchio di problemi burocratici irrisolti, e non sia stato affatto in grado, lo dicono i fatti, non dice la mia opinione o la loro opinione, di essere ciò che era stato presentato allora dal ministro Maroni del centrodestra, e cioè uno strumento attraverso il quale rendere esecutive subito le espulsioni dei clandestini. Non solo non è così, ma al contrario, si ingolfano le procure, le sanzioni sono totalmente non riscuotibili, l'identità di coloro che diventano oggetto del procedimento straordinario di fronte a loro smaterializzarsi poi rende inutile il processo straordinario, i costi sono a carico della collettività per l'assistenza legale gratuita per tutti, eccetera eccetera. Il governo, di fronte a questo, fine della mia introduzione, dà un atto parlamentare della primavera del 2014, era delegato entro la fine dell'ottobre del 2015 a cassare il reato penale di immigrazione clandestina. Il governo non ha esercitato la delega entro la scadenza, per poi da parte del Presidente del Consiglio raffermare invece l'intenzione di levare il reato. Se non che i fatti di Colonia e le pressioni politiche del nuovo centrodestra di Alfano, che da sempre è stato contrario alla depenalizzazione e a toccare questa norma, hanno spinto sia il Presidente del Consiglio sia il Ministro Alfano in questi giorni a dire no, il reato resta. Entrambi lo hanno fatto con una singolare dichiarazione, praticamente del tutto analoga, da parte di Renzi e da parte di Alfano. Cioè hanno detto: noi riconosciamo che il reato non funziona, e purtuttavia siamo dell'idea che deve rimanere per la percezione, perché altrimenti la gente si spaventerebbe. La mia opinione è del tutto personalissima, voglio sapere la vostra, chiamateci all'800240024, è che i reati in un paese civile non si tengono per la paura popolare, soprattutto se i vertici dell'esecutivo sono i primi a riconoscere che non funzionano e creano problemi, si levano dal codice penale, come ovvio, altrimenti siamo ai tempi della colonna infame, cioè torniamo al 600 e teniamo processi inutili con reati inutili, perché crediamo di dover assecondare le paure popolari. Questa è la mia opinione, non credo che c'entri niente né la destra né la sinistra né la sicurezza né l'ordine. Contano i fatti, cioè quello che è avvenuto e che è sotto i nostri occhi dal 2009 in avanti. Ma proprio per parlare di questi fatti, e per interrogarvi se poi anche secondo voi bisogna tenere i reati per assecondare paure pubbliche, oppure se invece pensiate che questo reato va tenuto semplicemente perché non è stato interpretato come andava interpretato. Questa è la tesi di Maroni, per esempio, che dice no, deve restare perché non hanno fatto tutto quello che era implicito nel reato. Però abbiamo con noi due ospiti che da punti di vista diversi hanno a che fare con, nel nostro ordinamento, con questa voce del codice penale che c'è dal 2009. E quindi abbiamo con noi il presidente delle Camere Penale, Beniamino Migliucci. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. E il segretario generale dell'Unione Giudici di Pace, visto che poi la faccenda, cioè l'iter di questo, oltre che le procure costrette ad aprire fascicoli per ciascuno di questi casi, in realtà ingolfa anche il lavoro dei giudici di pace. Quindi Alberto Rossi, che è il segretario generale dell'Unione Giudici di Pace, grazie e buon pomeriggio di essere con noi. Buon pomeriggio anche a voi, grazie. Migliucci, l'esperienza dal 2009 che cosa vi induce a ritenere del reato di clandestinità? Beh, io concordo con tutto quello che lei ha detto. Noi abbiamo pubblicato un documento titolato La ragionevolezza clandestina. In realtà io credo che anche quello che ha detto il ministro Alfano tenga poco conto della intelligenza dell'opinione pubblica. Basterebbe spiegare come stanno le cose. Non credo che nessuno possa ritenere che la pena di un'ammenda che va da 5 a 10 mila euro per un immigrato clandestino che non la pagherà mai possa costituire un deterrente. Se poi si spiegasse che comunque rimarrebbe la possibilità di espellere, ecco che ancora queste paure irrazionali io credo che scomparirebbero. Non credo che il fenomeno così triste e complesso dell'immigrazione clandestina possa essere, se si vuole combatterlo, combattuto in questo modo. Un conto è essere immigrato clandestino e quindi essere punito per una mera condizione soggettiva senza aver fatto alcunché di male, il che anche è profondamente sbagliato. Un conto è invece la punizione per chi procura l'ingresso illegale, per chi fa la tratta dei clandestini. Sono due cose profondamente diverse. I fatti di Colonia che sono stati evocati non c'entrano nulla. Tra l'altro ricordiamo che c'erano molti di questi immigrati che avevano il permesso di soggiorno. Quindi io credo che nel momento in cui la politica mischia delle cose che non c'entrano nulla, fa un pessimo servizio alla politica, all'opinione pubblica, alla società. Bisogna dire che questo reato ha ingolfato soltanto le procure, i giudici di pace, ha impegnato senza avere nessuno scopo, e tanto lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti. Non mi pare che il fenomeno dell'immigrazione clandestina si sia arrestato, e poi adesso pare che ci sia una marcia indietro. È bastato che qualcuno abbia evocato il tema della percezione della sicurezza che il governo pare fare marcia indietro, dopo che sia il ministro Orlando che la presidente della Commissione Giustizia della Camera aveva invitato a non fare della demagogia. Ecco, io credo che nel nostro paese invece si segua molto, purtroppo, ancora e sempre la demagogia, il diritto penale simbolico che fa tanto male alla giustizia. Quindi non posso che concordare con quello che lei ha detto in precedenza. Allora, noi aspettiamo le vostre telefonate, se siete favorevoli o contrari a che resti un reato l'immigrazione clandestina, il cui bilancio è sotto gli occhi di tutti. 800 24 00 24, chiamateci. Dico solo che in teoria i fascicoli aperti dalle procure sono stati 13.000 extracomunitari nel 2011, 16.000 nel 2014, 26.000 nel 2015, ma molte procure, i procuratori hanno molto parlato e naturalmente dicono per noi questa cosa non solo non serve a niente ma ci ingolfa. Molte procure in Italia hanno iniziato a non aprire più fascicoli individuali, ma a dare l'interpretazione che ha appena dato Migliucci. Per esempio alla procura di Catania, e il procuratore Giovanni Salve apre i fascicoli solo a carico degli scafisti e non più a carico obbligatoriamente di tutti coloro che sbarcano, non essendo nelle condizioni di essere ammessi nelle quote. Un minuto di informazione sulla circolazione stradale e poi ci facciamo raccontare per i giudici di pace questo reato che cosa ha rappresentato. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:47 primi 45 secondi. Stiamo parlando, dopo una bellissima puntata di Greco Ruggeri dedicata a David Bowie e Falco il Gabbiano, di una domanda, ohimè, su un terreno molto più terra-terra in Italia, cioè questa polemica sul fatto che Renzi ha cambiato idea sul fatto che di depenalizzare, di cassare il reato di clandestinità per l'immigrazione dal 2009 al nostro ordinamento, che in realtà non ha né consentito più espulsione a chi non ha i titoli, ha solo finito per ingolfare le procure e i giudici di pace, a comportare enormi costi per l'assistenza legale dovuta a ciascuno, e che molte procure stesse, di fronte a denunce per cambiare la situazione dell'ordinamento di fronte a questo non raccolte finora, hanno iniziato a non applicare più di fatto, come vi ho ricordato. Allora, ci ha parlato il presidente dell'Unione Camere Penali e vi ha detto come la pensa in concreto, Alberto Rossi, segretario generale dell'Unione Giudici di Pace. Io ricordo a chi ci ascolta che i giudici di pace, per le competenze che hanno sui procedimenti che abbiamo ricordato, sono tenuti personalmente per convalidare trattenimenti, espulsioni, devono recarsi personalmente presso i centri di identificazione ed espulsione, ovviamente senza personale coadiuvante, senza ufficiale giudiziario, cancelliere, qualunque altro ausiliario. Hanno per questo un'indennità di 10 euro. Pensate, come vi dico solo questo. Alberto Rossi, allora, che pensano i giudici di pace di questo problema del reato della clandestinità? Beh, ovviamente ci asteniamo con valutazioni di natura politica. Sì. Constatiamo obiettivamente che questo reato non è stato utile, non ha aiutato ad accelerare procedure di espulsione, anzi, perché consideri che l'ingresso o comunque il soggiorno illegale in Italia costituisce contestualmente illecito penale e illecito amministrativo. Quindi partono due procedure separate, fra di loro fra l'altro anche scarsamente coordinate. L'unico momento di coordinamento è il momento in cui viene eseguita l'espulsione, quindi lo straniero viene tradotto all'estero, a quel punto il giudice di pace, che magari ha fatto un processo, 3-4 udienze, e pronuncia una sentenza in un luogo a procedere, quindi come se nulla fosse successo. Diciamo che se si decide di mantenere questa fattispecie penale, sicuramente andrebbe rivista, insomma, così come è fatta non ha nessun senso, non ha forza dissuasiva, come ha evidenziato il procuratore antimafia, ostacola le indagini per capire chi sono gli scafisti, chi sono le organizzazioni. Quella è una questione abbastanza seria, perché se queste persone vengono fermate in mare o appena sono sbarcate sulla spiaggia e vengono iscritte nel registro degli indagati, a quel punto possono avvalersi la facoltà di non rispondere. A quel punto le indagini ovviamente sono seriamente ostacolate, insomma. Allora, Maria Luisa d'Ascoli Piceno ci scrive: visto che non si riesce ad applicare la legge, si tolgono i reati. Sbagliato, si deve mantenere il reato, se possibile far lavorare un po' di più la magistratura. Il problema, Maria Luisa, come abbiamo tentato di spiegare, è che la norma che ha introdotto la fattispecie la rende di fatto inapplicabile. Di fatto non è questione di non lavorare, perché i giudici di pace testa bassa e le procure, i fascicoli li aprono. Però ripeto, le condizioni perché il procedimento straordinario vada avanti sono nullificate dal fatto che il decreto penale di condanna si interrompe perché è impossibile reperire la persona per la notifica. Per come funziona il nostro ordinamento è così attualmente. A quel punto scatta la revoca, si imbocca la via ordinaria, il procedimento prende un'altra strada, la sanzione di 5-10 mila euro, tanto quando anche lo si acchiappasse, non ce l'hanno, e così via. Quindi è concepito come una grida manzoniana e viene difesa la sua permanenza oggi come una grida manzoniana che serve appunto a tenere buona la gente a prescindere dai risultati e dall'inapplicabilità. Ecco, questa è la domanda che faccio io. Figuriamoci, avesse portato a essere precisi e metodici nelle espulsioni di chi non ha titolo, magari, ma qui è il contrario, questo è il problema, è l'esatto contrario. Con un enorme dispendio di risorse umane dell'amministrazione pubblica, della magistratura, dei giudici di pace e finanziarie, e facciamo finta di non vederlo? Non lo so, a me non sembra molto logico, ecco. Fabio da Bergamo, come la pensa? Fabio, c'è? Eccoci. Sì, ci sono. Dica. guardate, la mia domanda è molto semplice. Io veramente sono meravigliato. Se questo reato esiste in quasi tutti i paesi del mondo, ed è applicato, non vedo perché non siamo in grado noi di applicarlo in Italia. È che la giustizia non funziona, o probabilmente è molto farraginoso, molto complicato e molto burocratico. Basterebbe snellire le procedure. Tutto lì. Sentiamo alla sua domanda: funziona così dovunque e perché altrove, quando anche fosse vero che è reato penale dovunque, perché funziona e da noi no? Che ne dice Beniamino Migliucci? Che non è così, ecco. E poi soprattutto bisogna essere, io credo, anche pragmatici. Ma c'è qualche immigrato clandestino che si preoccupa di una sanzione che non pagherà mai? Questo funziona come deterrente? La risposta è no. E poi ancora, il tema è punire chi fa la tratta illegale di questi poveracci, oppure punire con una sanzione che nessuno pagherà mai per una condizione soggettiva, soltanto per essere clandestino, una persona che non ha fatto nulla, dimenticando che nel nostro paese i reati penali e le sanzioni dovrebbero anche seguire il cosiddetto principio di offensività, e cioè che se qualcuno non ha posto in essere una condotta negativa nei confronti di nessuno, non può essere punito. Anche perché così si identifica tout court il clandestino come un potenziale terrorista, e che non è. Il tema è di impedire che sulla pelle di questa persona venga fatto un traffico immorale dell'illecito. Bisogna prendere gli scafisti, bisogna fare i processi che servono e bisogna condannare a dure pene coloro i quali fanno questo traffico, organizzano il traffico di persone. Questa è la realtà. Allora, si fanno processi inutili e non si fanno quelli utili, come spesso avviene in Italia. Grazie Migliucci, sentiamo ancora Carlo da Padova e poi Gianluca da Napoli. Carlo, prego. Sì, pronto? Dica. Buonasera a tutti. Dunque, io purtroppo devo dissentire con i suoi ospiti in studio e appoggiare le tesi dei suoi ascoltatori. Sì. Perché secondo il mio punto di vista, se le leggi sono inapplicabili o sono fatte male, devono essere corrette immediatamente. Mm. E se la magistratura non è in grado di far rispettare la legge, i giudici la mattina devono andare a lavorare. Perché mentre una volta si diceva che la stragrande maggioranza dei giudici fanno il proprio lavoro, lavorano anche a casa. Io sono dolente di dover dire che in questo momento la stragrande maggioranza dei giudici non fa il proprio lavoro come dovrebbe essere fatto e come in egual misura dello stipendio che percepisce. E quindi io sono costretto ad avallare la Carlo, guardi, io negli anni ho fatto polemiche incessanti su questo, però invito tutti quelli che la pensano come lei a riflettere su questo. Nel nostro paese da anni, io in questo do ragione per esempio alla Germania, chiudiamo un occhio su molte migliaia di coloro che sbarcano ogni anno per identificazione, poiché, virgola, sapendo che vogliono andare altrove in Europa, virgola, e alla luce di Dublino 2, virgola, lo sapete, cioè la norma internazionale che spinge il primo paese video identificatore poi a doversene occupare, diciamo, abbiamo manifestato una certa propensione istituzionale a farli sparire in Italia, a perdere il controllo, poi nella speranza che barcassero le frontiere. Questo è il modo concreto in cui ci comportiamo. In questo un po' di ragione i tedeschi ce l'hanno, e come. Allora, lei capisce che questo atteggiamento, che fa i conti anche con la limitatezza delle risorse, quando ne arrivano 150.000 in un anno, però in Germania sono arrivati 1 milione, allora questo atteggiamento fa pugni con l'idea della politica di aver scritto questa modalità di fattispecie penale scritta in un modo che fa pugni con l'altro comportamento istituzionale. Qui le ore di lavoro dei giudici c'entrano ben poco, a dire la verità, perché se ti si smaterializza dalle mani la persona su cui hai aperto il procedimento, il giudice ci può far poco o niente, la mia opinione. Gianluca da Napoli, come la pensa? Buonasera signor Giannino, complimenti per la trasmissione. Volevo far presente che purtroppo la politica dovrebbe occuparsi non di ciò che pensa la gente, ma di fare le cose per... Cioè, norme scritte bene, per esempio. Esatto. E questa è proprio la debolezza della politica di oggi. Perché io vorrei spiegare anche a Carlo che io sono d'accordo con lui, cioè se un reato risulta inapplicabile, Carlo dice bisogna cambiarle al volo invece che aspettare anni. Ne abbiamo aspettate dal 2009, siamo al 2016, 7, tra un po'. In questo sposo la tesi di Carlo. La cosa che mi sembra ipocrita è che un presidente del Consiglio, un ministro interno dicano il reato non funziona ma lo teniamo. Ah, allora siamo scemi. Questa è la mia banale opinione, eh? Non è che io sono contrario alla penalizzazione degli illeciti se sono gli immigrati o i clandestini, perché se avete l'idea che io sia uno di mano leggera su questo, sbagliate. Dico solo che mi sembra ipocrita questo atteggiamento da parte dei vertici di un governo. Però magari mi sbaglio, come devo dire. Poco tempo, ma ripeto, oggi era un giorno particolare. Grazie a Beniamino Migliucci, Alberto Rossi. Continuate con la 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:15 insieme a Alessandro Milan. Attenti a noi due.